in primo piano. In questo lunedì 14 febbraio l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata al fisco più pesante sulle imprese. È un allarme lanciato nell'edizione del lunedì del Sole 24 Ore dall'IMU all'IRAP, gli operatori nel mirino dei prelievi decentrati, ma poi l'apertura di tutti i quotidiani è pressoché unanime sulla manifestazione imponente che ha visto moltissime donne in piazza, qualcuno stima 1 milione in tutta Italia. Un fiume di donne in piazza per il Corriere della Sera. 1 milione di donne via Berlusconi, questo è il titolo di Repubblica. Per la stampa la sfida delle donne, l'Unità mette una foto sullo sfondo, la manifestazione delle donne è solo l'inizio. Per il Messaggero Rubi, la protesta delle donne. Occhio alla prima pagina del giornale, perché è una di quelle foto che come al solito poi faranno discutere, cioè c'è chi parlerà di ecco gli schizzi di fango. Ecco il leader nudo, questo è il titolo del giornale, non è Berlusconi. È una foto di Niki Vendola che risale al 1979, nella quale viene ripreso l'attuale governatore della Puglia in un campo nudisti a Capo Rizzuto. Ovviamente la foto è parzialmente censurata con un nastrino nero proprio lì, dove insomma non si deve vedere in prima pagina. Ecco il leader nudo e in luogo pubblico non è Berlusconi. Questo è il titolo di prima pagina, titolo più che altro poi colpisce la foto, è quella che colpisce l'occhio in prima pagina, in bella evidenza. Vediamo da che cosa vogliamo partire come segnalazioni. Beh, intanto da Repubblica vi segnalo a pagina 23. È un articolo che per la verità inizia in prima pagina: giardinieri, muratori, cuochi, ecco le 10 professioni del futuro. È un interessante articolo di Federico Rampini che prende spunto da una ricerca fatta negli Stati Uniti sulla top 10 delle professioni del futuro, una guida insomma indispensabile per capire le opportunità di lavoro che si offrono alle nuove generazioni. E ai noi, scrive Federico Rampini, nella classifica non c'è il medico, non c'è l'avvocato, non c'è l'ingegnere, non c'è l'architetto. Volete sapere questa top 10? Parto dal basso. Al 10° posto infermieri specializzati, al 9° gli assistenti sanitari a domicilio, all'8° i giardinieri, al 7° i muratori, al 6° posto i vigilantes, le guardie giurate, al 5° posto l'accoglienza, gli uscieri, al 4° posto gli aiuti infermieri, il servizio ospedaliero. Al 3° posto, delle top 10 delle professioni del futuro, i camionisti. Al 2° gli addetti al servizio clienti. E al 1° posto, camerieri, cuochi, addetti alla ristorazione. Insomma, scrive Federico Rampini, ciò che servirà sempre di più sono i mestieri che garantiscono i servizi alla persona, la sfera del benessere individuale, dell'assistenza, dell'aiuto. Tutto ciò avrà un boom con l'invecchiamento della popolazione. Queste le attività che verranno richieste più in futuro. Dunque niente architetti, medici, giornalisti, guai a parlarne poi, o avvocati, ma queste professioni del futuro. La seconda segnalazione che vi voglio segnalare a pagina 23 del Corriere della Sera, vi ricordate i T-RED, quei semafori cosiddetti intelligenti per i quali c'è stata un'inchiesta e migliaia di ricorsi di tutti gli italiani contro questi semafori che con la telecamera scoprono se un automobilista passa con il rosso? Ebbene, la Cassazione riabilita i semafori che fanno da vigile. La sentenza della Cassazione infrange definitivamente le speranze di migliaia di automobilisti indisciplinati che dopo il sequestro di apparecchi T-RED avevano fatto ricorso ai giudici di pace chiedendo l'annullamento di tutte le multe ricevute per essere passati col rosso. Ora la Cassazione ha stabilito non c'è truffa, non c'è inganno in quel meccanismo per il quale la Procura aveva sequestrato semafori e apparecchi in mezza Italia. Era partita da una vicenda della Procura di Verona. E ora il suggello della Cassazione dice che anche il Ministero ha dissipato tutti i sospetti sulla frode, di conseguenza il sequestro deve essere annullato e tutte queste multe sono state fatte in maniera regolare. E dunque i semafori che fanno da vigile, i T-RED, sono validi, saltano migliaia di ricorsi. Questa è pagina 23 del Corriere della Sera. Come detto, la maggior parte dei giornali apre sulla manifestazione imponente in varie città italiane delle donne, soprattutto donne, ieri in piazza. 1 milione vengono stimate da Repubblica, troverete tantissime pagine dedicate a questo, tantissime foto, addirittura l'Unità, le ho contate, fa le prime 24 pagine del giornale dedicate a commenti su queste manifestazioni. Insomma, c'è poco d'altro per quel che riguarda almeno le aperture. L'opposizione applaude ministre contro i cortei, così titola pagina 5 il Corriere della Sera. Da segnalare soprattutto sono alcuni commenti, alcune interviste. Beh, il Corriere della Sera intanto ospita un intervento del ministro del turismo Michela Vittoria Brambil, che scrive: la dignità non si trova in piazza, è una lettera al direttore Ferruccio De Bortoli. Le donne hanno ottenuto in tanti anni il divorzio, la legge 194 purtroppo ancora in parte non applicata per l'aspetto del sostegno alle donne in difficoltà. Hanno ottenuto la legge sulla procreazione assistita, contrastata e discussa quanto si vuole, ma certamente un significativo passo verso la libertà di scegliere la maternità. Poi tutti gli strumenti di sostegno, gli incentivi, la legge sullo stalking, l'occupazione femminile, è vero, è inferiore alle altre, ad altri paesi europei, ci sono delle ragioni da cercare, da approfondire. Tuttavia, insomma, tutte queste conquiste, dice il ministro Brambilla, sulle quali dilungarsi non sarebbe ancora, sarebbe facile, ma è abbastanza chiaro che secondo tutte queste conquiste, scrive il ministro Brambilla, non abbia alcun senso scendere in piazza per reclamare la dignità. La dignità ce la diamo da sole. Così anche il ministro Gelmini viene intervistato da Repubblica, da Francesco Bei, soprattutto perché il ministro Gelmini aveva bollato come una iniziativa di radical chic queste manifestazioni. Allora, ministro Gelmini, chiede Francesco Bei, poche e radical chic, lei aveva detto, in piazza erano decine, centinaia di migliaia, non crede di dover fare autocritica? No, risponde la Gelmini, perché io mi riferivo alle promotrici, continuo a pensare che si sia trattato di un'iniziativa nata e cresciuta nei salotti della cultura e del cinema. Quelli scesi in piazza mi paiono simili al popolo viola. Io questa indignazione nei confronti di Berlusconi nel paese non la colgo affatto. Le preoccupazioni dei cittadini sono altre. Vogliono sapere quanto devono aspettare per un posto letto in ospedale, quale scuola sia migliore per i figli. La sinistra farebbe bene occuparsi di questo e lasciar perdere l'anti-berlusconismo. Affiancata l'intervista a Maria Stella Gelmini c'è invece intervistata suor Eugenia Bonetti, alla quale è arrivata una vera e propria ovazione dalla piazza. Suor Eugenia Bonetti dice: io sono tutto che una radical chic, tranne che una radical chic, sono una missionaria della Consolata, ho vissuto per 24 anni in Africa e dal 1993 sono impegnata in un centro Caritas di Torino, dove ho conosciuto il mondo della notte, dove ho incontrato il volto, le storie, le sofferenze, la disperazione e la schiavitù di tante donne portate in Italia col miraggio di una vita confortevole e poi trovarsi nella mani della criminalità organizzata. Dice suor Eugenia: a me il caso Ruby non interessa più di tanto, è stata una bella manifestazione, molto partecipata. La dignità femminile, siamo stati troppo risolti nell'esteriorità, nel potere, nei soldi, nella bellezza, il valore intrinseco delle donne è stato giorno dopo giorno ignorato per tanto tempo. Insomma, ci sono discussioni, polemiche, troverete le foto, c'è la polemica per esempio dell'Unità con Toni Ioppa, pagina 26, contro il TG1, definito ormai Minzolini il negazionista in questo articolo, si occupa dell'Africa, TG1 scandaloso ieri, prima delle donne, alle quali è stato dedicato un minuto scarso di servizio, si sono occupati del dramma di Lampedusa e va bene, poi dell'Egitto e anche dell'Algeria, con immagini del giorno prima. Insomma, le polemiche anche per quel che riguarda la TV. Archiviata la questione della manifestazione delle donne, certo si apre una settimana che da tutti i notisti della politica viene definita decisiva. Ormai tutte le settimane vengono definite decisive, questo per il proseguo della legislatura. ma questa viene definita più decisiva delle altre. Non si capisce bene perché, o meglio, andiamo a vedere che cosa raccontano per esempio Claudio Tito su Repubblica nel suo retroscena. Pare che il destino, eccolo qua, il destino della legislatura si decide questa settimana. Questo è l'incipit dell'articolo di Claudio Tito. C'è un filo invisibile che lega le parole pronunciate nel weekend da Umberto Bossi e gli avvertimenti di Giorgio Napolitano, un filo che scuote l'intera maggioranza. Perché avverte appunto il senatore, si decide tutto questa settimana. Pare di averla già sentita, ma chissà, forse sarà davvero così. Che cosa, secondo Claudio Tito, secondo Repubblica, ronza nella mente di Berlusconi come un tarlo assolutamente da scacciare, è questo. Se si arrivasse a una sentenza, se si arrivasse al processo presto per Drubigate e poi a un'eventuale sentenza di condanna, allora già in primo grado i magistrati accompagnerebbero la condanna con l'interdizione dei pubblici uffici, compresa la presidenza del Consiglio. È chiaro che l'obiettivo dei magistrati è questo, si è sfogato l'altro ieri il Premier con un fedelissimo. In quel caso cosa faremo? Come si comporteranno i leghisti? Cosa accadrà del gruppo dei responsabili? Dobbiamo porci e fare di tutto per impedirlo, perché sarebbe un golpe inaccettabile. Ecco dunque, il rischio è questo di un'eventuale condanna con l'interdizione ai pubblici uffici. E scrive tra l'altro Claudio Tito, la verità è che c'è una paralisi dal punto di vista anche parlamentare abbastanza evidente. Ormai il Parlamento si riunisce 2-3 giorni a settimana, il motivo è piuttosto semplice: l'assenza di provvedimenti a discutere. E a questo proposito Sergio Rizzo, manco a farlo apposta, sul Corriere della Sera dedica proprio mezza pagina all'attività parlamentare, definita al minimo nel 2011 solo una legge è stata approvata. Dall'inizio dell'anno, nel 2010 approvate appena 10 norme, 10 in un intero anno, proposte da deputati e senatori, perché spesso poi ci sono i decreti legge che sono approvati per via governativa e poi vanno in Parlamento. E dunque una sola legge sfornata in 44 giorni, e non siamo nel bel mezzo della calura estiva o nel pieno della campagna elettorale, così scrive Sergio Rizzo. Per giunta non si può certamente dire che sia stato un provvedimento particolarmente impegnativo, è una conversione in legge di un decreto approvato dal governo a novembre dello scorso anno sui rifiuti della campagna. Dunque l'unica legge approvata dal Parlamento è una conversione in legge di un decreto legge governativo. Questo è il bilancio dell'attività legislativa di Camera e Senato dal 1 gennaio del 2011, tutto qua, un vuoto senza precedenti che difficilmente sarà colmato. E scrive Sergio Rizzo, tra l'altro, nei 409 giorni trascorsi dal 1 gennaio 2010, l'aula di Montecitorio si è riunita in 171 occasioni. 171 occasioni, ancora più sporadiche le convocazioni di Palazzo Madama, il Senato, 129 giorni nel 2010 di convocazione. Conosciamo le obiezioni, scrive Rizzo, l'attività parlamentare non si limita alle sedute, ci sono per esempio le commissioni, ma a parte la singolarità di certi organismi, il loro lavoro dovrebbe sfociare quasi tutto nell'aula, invece ecco no. E per quel che riguarda poi sempre l'attività politica, sicuramente sui generis, Sergio Rizzo si concentra anche, non è la prima volta, sulla durata media dei consigli dei ministri. Le discussioni sul merito di singoli provvedimenti sono sempre più rapide. Sapete quanto è durato l'ultimo consiglio dei ministri, quello sull'emergenza degli sbarchi a Lampedusa? È durato 5 minuti di orologio, dalle 13.35 alle 13.40. Il 21 gennaio invece, per esaminare provvedimenti, approvare una decina di provvedimenti, tra quali quisquiglie come il piano sanitario nazionale o la disciplina degli sfratti, oltre a 15 nomine, tutto questo è durato un'ora. Una media circa di 55 minuti la durata dei consigli dei ministri. La settimana sarà decisiva, chi lo sa, vedremo come. Sta di fatto che oggi, racconta Ugo Magri della Stampa, Silvio Berlusconi sarà ospite di Maurizio Belpietro alle 8.45 nella telefonata su Canale 5 e da lì si capirà qualcosa in più di come andrà questa settimana. Qualcosa in più si capirà anche del clima che c'è tra Ferrara, Giuliano Ferrara e Giulio Tremonti. Ieri ancora un attacco di Giuliano Ferrara al ministro dell'economia Tremonti, e Aldo Cazzullo vi dedica un'intera pagina. Ferrara-Tremonti, così parte l'attacco finale al non allineato. con Ferrara che dice: non voglio, per carità, che Tremonti sia un militante, ma neppure che faccia la piccola vedetta lombarda silenziosa. Queste sono le accuse un po' che arrivano a Tremonti di non essere fortemente a fianco del Presidente del Consiglio. Insomma, la politica è qua anche con tanti retroscena. Tra l'altro oggi Giuliano Ferrara, nel suo editoriale sul Foglio del lunedì, i neopuritani perdono l'amore del paese, ritorno alla politica, questo è l'appello di Ferrara, dice: le accuse di concussione e prostituzione sono clamorosamente false, sono lo strumento per colpire Berlusconi, abbatterlo. Con la logica non riusciamo a togliergli la fiducia alle Camere, non ce la facciamo con le elezioni perché i cittadini sono indegni di esercitare la sovranità, e allora infamiamolo, paralizziamolo con altri mezzi. Questa, secondo Ferrara, è la strategia per abbattere Berlusconi. E conclude Ferrara: sicché abbiamo bisogno di due cose per emendarci e tornare a essere una grande nazione europea. Che il Parlamento torni a rivendicare il suo primato politico e con coraggio fermi la mano giudiziaria che attenta alla pace civile per ragioni squisitamente politiche, e che Berlusconi esca dall'incantesimo e ritrovi quella calma e serena visione delle cose decisiva per uno statista come Giovanni Giolitti al fine di governare lo Stato. Ed ecco qui la conclusione di Ferrara: nella grandezza e bellezza della politica tutto è possibile, mentre fuori da quel sacrario che i padri costituenti vollero costituire, custodire e proteggere con l'articolo 68 della Costituzione, quello per cui sono gli eletti a dire se un'indagine è persecutoria o no, niente è possibile se non la rovina comune. Ecco quella citazione dell'articolo 68 della Costituzione da parte di Ferrara, quello dell'immunità parlamentare che qualcuno vorrebbe ripristinare, ed è il tema del nostro sondaggio. Voi reintrodurreste l'immunità parlamentare, questo tema che si è riaffacciato sul dibattito politico di cui vogliamo parlare oggi? E dunque uno prende la prima pagina del giornale del lunedì e trova questo titolo: ecco il leader nudo e in luogo pubblico non è Berlusconi. È una foto sgranata perché risale al 1979, è su una spiaggia, cioè sullo sfondo il mare, in primo piano ci sono tre giovanotti che si abbracciano, sono tutti nudi e ci sono tre fascette nere proprio lì, insomma, dove non si può mostrare tutto, ed ecco quello in mezzo è Nichi Vendola. 1979, nel campo nudisti di Capo Rizzuto, l'attuale governatore pugliese opponeva il naturismo ai bacchettoni. Questo la didascalia del giornale, che mette dunque in prima pagina il leader nudo, ma non è Berlusconi. La sinistra si scopre, ecco il leader nudo in un luogo pubblico. C'è poi un lungo articolo di Paolo Bracalini. Ovviamente ci saranno commenti durante la giornata. Veniamo al tema che tra l'altro tratteremo alle 8:20 nell'intervista. Sarà nostro ospite il sottosegretario al Ministero degli Interni Alfredo Mantovano. 1500 euro per passare il mare, i pescatori diventano trafficanti di uomini. Questo è il reportage da Zarzis in Tunisia. Per il Corriere della Sera di Giuseppe Sarcina la situazione sta diventando esplosiva, c'è un barcone in arrivo a Lampedusa da ogni ora circa, questo viene stimato, sono migliaia ormai gli immigrati che sono fuggiti in questo caso dalla Tunisia, uno dei paesi colpiti nel Maghreb dalle situazioni politiche e difficoltà, ora è capitato all'Egitto e dunque guardando a medio termine c'è il timore che questi sbarchi possano continuare. Il Messaggero intervista Giuseppe Caruso, che è il prefetto di Palermo nominato commissario straordinario da poco all'emergenza immigrati, dice: tutti gli immigrati saranno ospitati in Sicilia, ho riaperto, è vero, il centro di Lampedusa, ma previa disponibilità del ministro, oggi abbiamo una riunione col Viminale e sono in grado di affermare che la Sicilia ha una grande capacità ricettiva, ogni provincia siciliana ha dato il suo assenso per dare ospitalità agli immigrati clandestini. E tra l'altro verranno smistati, l'unico dubbio è se smistarli qua e là oppure metterli in un'unica grande struttura, ma insomma il prefetto di Palermo dice: le strutture recettive ci sono anche un po' di polemiche con il governatore del Piemonte, Cota, che intervistato su Repubblica, pagina 14, dice: attenzione, quei clandestini non sono automaticamente tutti rifugiati, bisognerà vedere caso per caso e chi non ha diritto a rimanere dovrà essere respinto. Su questo tema, tra l'altro, c'è anche la polemica con l'Europa, con il ministro Maroni, avete sentito, ha detto l'Europa praticamente non fa nulla, è silente. e dunque ci dobbiamo sobbarcare tutta questa problematica da soli, perché siamo il terminale più prossimo all'Africa per quel che riguarda gli sbarchi. Su questo tema anche Romano Prodi, intervistato da Lorenzo Bianchi per il Quotidiano Nazionale, dagli sbarchi all'Egitto troppi errori. Anche Romano Prodi dice effettivamente il dito va puntato contro il vecchio continente, c'è uno scarso impegno, è quello che ho sempre detto anch'io, come dice Maroni, uno scarso impegno per il Mediterraneo. Comunque ne parleremo alle 8:20 con il sottosegretario Mantovano. Io voglio andare ad alcune segnalazioni. La prima è il titolo di apertura del Sole 24 Ore: fisco più pesante sulle imprese. Beh, sono delle analisi non incoraggianti per le imprese che arrivano sui conti del federalismo, che rischia di essere salato per le imprese, scrivono a pagina 2, a pagina 3. Il Sole 24 Ore, Cristiano Dell'Oste: per l'azienda brutte sorprese federaliste. Non c'è solo l'imposta municipale sui capannoni, negozi, uffici, centri commerciali. Questo restyling del fisco territoriale rischia di portare brutte imprese a un aumento delle imposte per le imprese. Secondo la CGA di Mestre, per esempio, il passaggio dall'ICI all'IMU costerà alle imprese 542 milioni di tasse all'anno in più, che diventano 738 se si conteggiano anche gli edifici strumentali delle aziende che non sono persone giuridiche. Mentre l'elaborazione di Rete Impresa Italia arriva a quantificare in una proiezione possibile fino a un aggravio di 812 milioni di euro per le imprese in tasse. E dunque ecco tutte le stime, le trovate con l'identikit dei nuovi tributi che arriveranno con il federalismo, questi sul Sole 24 Ore. Tra l'altro, a proposito di tasse, o meglio di evasione, registro un interessante articolo sul Sole di Rosalba Reggio a pagina 7 riguardo il canone RAI. RAI, l'evasione cresce da 13 anni. In regola con il canone sono in Italia il 73% delle famiglie. La più virtuosa è la Toscana con un 82,3%, la meno virtuosa, credo, così vedo tutta l'Italia, la Campania col 54,8%, cioè una famiglia su due praticamente non paga il canone della RAI. In Calabria sono al 60% chi paga, in Sicilia il 58%, in Alto Adige l'81%, in generale si paga molto più al nord che al sud. Voglio chiudere, che cosa? Ci sarebbe un articolo interessantissimo, li trovate sul fatto drammatico in Egitto, che sono state rubate delle statue di Tutankhamon e Nefertiti, questo durante i saccheggi al museo egizio, un qualcosa veramente che è uno scempio nei confronti non solo dell'Egitto ma dell'umanità. Ve lo segnalo solo alla pagina 17 del Corriere, perché chiudo col titolo della Gazzetta dello Sport. Sì, oggi si può fare. Juve pazza di Matri, non che io sia juventino, per carità. Chi è juventino comunque va in clinica in Svizzera e si guarisce in una settimana. Il suo gol affonda l'Inter, si infortuna ma resta in campo a lottare. Questa è la vittoria della Juventus nel derby d'Italia ieri contro l'Inter. Ci fermiamo. Allora, il sondaggio nostro riguarda l'immunità parlamentare. La vorreste reintrodurre? Come spinge qualcuno? Questo è il tema del nostro sondaggio. Votate. Invece alle 8:20 parleremo di sbarchi a Lampedusa nell'intervista. Ora il GR.